24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:32 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua con 24 mattino, una nuova puntata fino alle 9 in diretta e subito il nuovo sondaggio che vi vogliamo lanciare. Siamo un paese di bamboccioni e questo si sa. È il paese in cui i giovani vanno fuori di casa dai genitori più tardi. Colpa dei genitori o colpa del sistema sociale, colpa del welfare? L'abbiamo declinata così la domanda di oggi, il nostro sondaggio, dovete votare. Per il momento il 70% di voi dice colpa del sistema sociale. Ne parleremo alle 8:30, ci sarà anche il ministro Renato Brunetta che due giorni fa, un po' per provocazione, ha detto facciamo una bella legge a 18 anni fuori di casa i giovani. Era una provocazione, ma il tema è interessante. Ne parliamo dopo, votate su radio24.it o il sole24ore.com. Questo, ma anche altri temi, soprattutto sulle prime pagine dei giornali. In primo piano. È inutile ancora Haiti, il dramma di Haiti che monopolizza le prime pagine dei giornali. Haiti, angoscia per 100 scolari, lite Francia-America sugli aiuti, questo è il titolo del Corriere della Sera. Haiti, la strage dei bambini, 100 sepolti nella scuola per Repubblica, 100 bimbi sotto la scuola crollata, titolo Il Messaggero. Il grido dei bambini è l'apertura di Avvenire. Queste sono le aperture dedicate a questo tema. C'è chi fa una scelta invece su un altro tema, sicuramente interessante, la politica, la lettera di Napolitano al giorno del decennale della morte di Craxi. Craxi, un riformatore, così titola La Stampa. Ma io prenderei in mano e partirei da Haiti il Sole 24 Ore, che apre su temi economici, l'Europa processa Atene, e poi c'è il presidente di Confindustria Marcegaglia, riforme su fisco, scuola e amministrazione. Ma c'è anche un editoriale del direttore Gianni Riotta su Haiti. Salviamo Haiti per salvare tutto il mondo. Haiti come Copenaghen, il mondo non ha più una guida, è confuso. Nella capitale danese non abbiamo saputo trovare una condivisa strategia per svilupparci senza distruggere il pianeta, americani contro cinesi, poveri e nuovi ricchi contro tutti, europei svagati. Ad Haiti, americani, europei, volontari, ONU e gracili autorità locali si scontrano nel tentativo di mettere ordine nella tragedia. Gli europei arrivano con i Medici Senza Frontiere, ma l'aereo viene dirottato, la collerica Parigi di Sarkozy se ne lagna con l'ONU, mentre l'incerto segretario generale Ban Ki-moon deve ascoltare la furia dei suoi collaboratori che hanno perso parenti e colleghi nel crollo del quartier generale a Port-au-Prince e piangono. L'ONU doveva prima salvare i suoi feriti e onorare i suoi morti, non abbandonarli. Manca tutto ad Haiti. Mezzo litro d'acqua costa $6, quanto basta di solito a tante famiglie per vivere una settimana. Haiti e Copenaghen. Insomma, parte da qui Gianni Riotta per dire è il momento, anche un appello ai lettori e alle lettrici, di contribuire a salvare chi si può ancora salvare. E a pagina 7 c'è, a fianco al reportage dell'inviato Claudio Gatti, che abbiamo sentito anche in GR24, anche tutti i modi per salvare, tutti i conti correnti postali, tutte le coordinate della Croce Rossa Italiana, dell'Unicef, la Caritas, Medici Senza Frontiere, Agire, la Fondazione Francesca Rava, sono alcune, insomma. Le potete trovare dettagliate se prendete il Sole 24 Ore, lì c'è il concreto modo di come dare una mano. E c'è appunto il reportage da Cristo Re di Claudio Gatti. Gli aiuti umanitari, scrive Gatti, la protezione civile locale, l'ONU, l'ONG, gli americani, l'ex presidente Bill Clinton, qui nel cuore delle bidonville di Cristo Re, nella prima circoscrizione di Port-au-Prince, nessuno li ha ancora visti. Eppure ci sono 7-8 mila persone riversatesi sulle due o più strade o tre strade più larghe, con i pochi beni che sono riusciti a salvare. Lì vivono da 6 giorni. Qualcuno dorme su un materasso, i più per terra. E scrive Gatti, mi addentro per le viuzze, seguo la mia guida, Gaston, incrociamo due uomini con in spalla lamiere arrotolate, erano i tetti di casa loro, le stanno portando in strada per costruire una nuova baracca. Ci sono zone dove davvero non è arrivato nessuno, mentre ci sono zone dove continuano ad arrivare persone. Allora, intanto c'è la polemica sugli aiuti, come detto, l'aereo di Medici Senza Frontiere che è stato dirottato, c'è anche lo sfogo di Stefano Zannini, che è il capo missione di Medici Senza Frontiere ad Haiti, che su Repubblica sta tenendo un diario da tutti dai primi giorni sostanzialmente, e dice: siamo veramente infuriati, per la seconda volta hanno impedito l'atterraggio a un nostro aereo carico di materiale sanitario, serve a salvare delle vite. Abbiamo protestato, siamo andati in piena notte all'aeroporto, ma gli ufficiali americani sono stati irremovibili. Ci hanno detto che l'aereo era troppo grosso, non era sulla lista degli arrivi. Abbiamo insistito, urlato, minacciato, alla fine hanno ammesso l'errore, si sono scusati, ma era troppo tardi. L'aereo era già in discesa a Santo Domingo e da lì si deve spostare via terra, e dunque con incomprensibili ritardi. Dicevamo, ci sono luoghi di Haiti dove nessuno è ancora arrivato. Ci sono luoghi dove invece alcune persone arrivano tutti i giorni. È la nuova polemica, che è anche immortalata dalle fotografie, di una nave da crociera che sbarca tutti i giorni in una delle zone più belle, più lussureggianti di Haiti. Si chiama L'Abadie e tra l'altro dà spunto al manifesto, il manifesto che titola con una foto a tutta pagina di haitiani che protendono le mani verso un sacco di aiuti, e il titolo è proprio questo: aiuto. L'Abadie, nausea ai Caraibi, questo è il titolo dell'editoriale di Guglielmo Ragozzino. L'Abadie è un paradiso turistico a 130 km da Port-au-Prince. Il governo haitiano lo ha ceduto a una compagnia internazionale che ne ha fatto un resort ben difeso da guardie armate. La pubblicità precisa che si trova sulla costa nord di Hispaniola, di Haiti meglio non parlare, risulterebbe sgradito alle famiglie in crociera. Venerdì, 3 giorni dopo il terremoto, ha gettato le ancore il piroscafo Independence of the Seas. L'armatore ha assicurato che la nave caricava anche aiuti, ottenendo applausi dai passeggeri, divisi se prendere terra. Uno ha accusato nausea, una forse aveva solo mal di mare. Altre navi seguiranno, molti turisti hanno prenotato sport, giochi, musica, piaceri e shopping di L'Abadie. Insomma, qual è la polemica? Che mentre c'è questa tragedia in corso, continuano gli sbarchi dei turisti in questa zona affittata a una compagnia americana per navi da crociera, dove imperterriti i turisti e gli stessi armatori continuano a fare sbarcare le navi. Questa insomma è l'ultima polemica piccola rispetto alla polemica più grande, più imponente, riguardante gli aiuti che davvero faticano ad arrivare. Ma trovate molto su Haiti che io voglio accantonare come tema per arrivare ai temi italiani. Sicuramente il tema italiano che tiene banco è la lettera che il presidente della Repubblica Napolitano ha spedito alla vedova Craxi nel decennale della scomparsa del marito, Bettino Craxi. Napolitano su Craxi, durezza senza eguali. Napolitano scrive alla famiglia. Il Corriere della Sera pubblica tutta la lettera a pagina 8 e 9, e diciamo che il punto più interessante è quello quando si parla di insomma della vicenda di Mani Pulite. Attorno al sistema dei partiti, scrive Napolitano, avevano finito per diffondersi degenerazioni, corruttele, abusi, illegalità, che lo stesso Craxi trovarono la loro più esplicita descrizione nel discorso pronunciato il 3 luglio 92 proprio dall'onorevole Craxi alla Camera. Lo ascoltammo tra l'altro qualche giorno fa quando parlammo di Craxi venerdì scorso. L'onorevole Craxi, scrive Napolitano, dimessosi dal segretario del PSI, fu investito da molteplici contestazioni di reato. Senza mettere in questione l'esito dei procedimenti che lo riguardarono, è un fatto che il peso della responsabilità per i fenomeni degenerativi ammessi e denunciati in termini generali e politici dal leader socialista era caduto con durezza senza eguali sulla sua persona. Né si può peraltro dimenticare che la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo ritenne, con decisione del 2002, che pur nel rispetto delle norme italiane allora vigenti fosse stato violato il diritto a un processo equo per uno degli aspetti indicati dalla Convenzione europea. Dunque, il presidente Napolitano, con questa sottolineatura, dice: fu colpito Craxi, certo nelle sue responsabilità, ma con una durezza senza eguali, tanto che su tutti i giornali, anche su Repubblica vi dedica pagina 2-3, c'è anche la commozione proprio della vedova Craxi. Grazie presidente della sua verità. L'inviato Umberto Rosso ad Hammamet È così, è andata proprio così. Bettino colpito dalla giustizia con una durezza senza uguali. Grazie, presidente Napolitano. Queste le parole di Anna Craxi, la vedova Craxi. Mentre La Stampa che fa? Va a intervistare tra gli altri uno dei protagonisti dell'epoca, sicuramente dall'altra parte. Vale a dire l'allora capo della Procura di Milano, Francesco Saverio Borrelli, intervistato dal cronista di Giudiziaria, sia di allora, allora lavorava al Giorno, oggi alla Stampa, Paolo Colonnello. Quella del presidente non è una bacchettata al pool di Mani Pulite, dice Borrelli. Assolutamente no. Per quello che ho potuto ricostruire vi furono ben 3 sentenze della Corte di Strasburgo sui processi a Craxi, dice Borrelli. E poi dice non ci fu dolo sicuramente da parte dei giudici, altrimenti bisognerebbe pensare che tutti i 60.000 detenuti in Italia dell'epoca abbiano subito un processo ingiusto. E poi Borrelli parla dell'attualità, ancora sulla via a Craxi, lei a Milano, lei è d'accordo o è ancora contrario? Sono contrario, trovo sconveniente che si intitoli una strada, un giardino, una piazza a un latitante. Ma Craxi oggettivamente non è stato solo questo. E risponde Borrelli, è chiaro che quando la distanza sarà tale da garantire una prospettiva storica, non solo politica, tra i fatti e l'uomo che se ne è reso protagonista, si potrà discutere più ampiamente sulla personalità di Craxi, ma trovo offensivo che a breve distanza di tempo e per ragioni speculative si voglia riabilitare un cittadino che si sottrasse alla giustizia del proprio paese e si rese latitante. Insomma, Francesco Saverio Borrelli è molto duro su questo punto. La politica invece si anima, oltre che per questa lettera, per la questione delle regionali. C'è la vicenda che dovrebbe essere risolta domani, mercoledì, dagli esponenti del PDL sulla questione del rapporto PDL-UDC con Bossi, che dice all'UDC intima sopra il Po, niente intese. Questo sul Corriere della Sera, il giornale è più esplicito nel suo titolo di apertura. Che ora vai a trovarlo, ma eccolo qua, lasciate perdere Casini, in titolo di prima pagina, basta con i tiramolla centristi, e ad Alberto Signore scrive in retroscena, la tentazione di Silvio è quella di scaricare proprio i centristi una volta per tutte, mentre sul fronte diciamo del centrosinistra la notizia così nuova è quella dell'indagine che coinvolge il presidente della Regione Puglia e possibile anche ricandidato, ci saranno le primarie in Puglia, Nichi Vendola. Concussione, Vendola indagato, lo trovate su tutti i giornali, la leggo dal Corriere della Sera. L'inchiesta sulla sanità pugliese appare un ciclone inarrestabile, dopo funzionari, assessori, manager di primo livello è indagato anche il governatore Nichi Vendola. Il reato ipotizzato è concussione, l'episodio appare banale, riguarda la mancata nomina di un luminare di epidemiologia sulla quale insomma Vendola si sarebbe lamentato, avrebbe fatto pressioni per la nomina di un... insomma, perché non gli andava bene quella nomina. Vendola indagato per tentata concussione, questo è anche il titolo non di prima pagina, ma più importante, ma che campeggia in prima pagina anche su Libero. In primo piano. Allora, che la giustizia sia il tema che ancora tiene banco nella politica, si può vedere dalle prime 2 pagine di Libero e l'Unità, che le cito così poi passiamo oltre. Il fuggitivo, titola l'Unità, è Berlusconi, il fuggitivo, 16 anni, 24 procedimenti, 20 leggi su misura, insomma il tema consueto, solito sulla questione della giudiziaria riguardante il Presidente del Consiglio. Mentre i giudici ignorano la legge, questo è il titolo di apertura di Libero, vale a dire un decreto del governo autorizza il CSM a spostare le toghe dove servono, ma per non creare scontento la norma resta inapplicata. Efficienza della giustizia e lotta al crimine possono attendere, scrive il direttore Maurizio Belpietro. Ma veniamo al tema del nostro sondaggio. Come detto, ancora oggi ci sono analisi, per esempio Luca Ricolfi sulla Stampa, cari bamboccioni impreparati. Allora, il tema è quello che ha detto il ministro Brunetta, dopo prendendo spunto da una sentenza che ha condannato un padre a pagare, a sostenere una figlia di 32 anni, fuori corso universitaria perché ancora dipendente dal papà e dalla mamma, peraltro separati. E scrive Luca Ricolfi: nessun paese occidentale, in nessun paese occidentale i figli restano a casa con mamma e papà così a lungo come in Italia. Perché? Per anni l'interpretazione dominante è stata sono cause economiche, poche occasioni di lavoro, mercato degli affitti congelato, proliferazione delle università sotto casa. Ora si ipotizza che la lunga permanenza sia in famiglia anche il frutto di una scelta degli italiani. Lucetta Scaraffia sul Riformista fa notare che quasi metà dei bamboccioni restano in famiglia perché si trovano fin troppo bene. Ma un aspetto che Ricolfi dice è stato poco sottolineato sono le scelte scolastiche dei giovani italiani. Tra i molti record negativi dell'Italia c'è il fatto che in nessun altro paese sviluppato sono così tanti giovani che potremmo definire nulla facenti, nel senso che né lavorano né studiano. Se a questo aggiungiamo il fatto che il numero di giovani che riescono a laurearsi è circa la metà di quello medio europeo e che ai test PISA sui livelli di apprendimento i risultati dei nostri quindicenni si collocano agli ultimi posti in Europa, forse riusciamo a vedere un'altra faccia del problema dei bamboccioni, cioè scelte scolastiche pessime, dice Luca Ricolfi. Che ne pensate? Colpa dei genitori o del sistema sociale? Questa è la domanda che vi poniamo. Il fatto per cui l'Italia sia un paese dei bamboccioni, di chi è la colpa? Votate su radio24.it o il sole24ore.com, ne parleremo tra mezz'ora abbondante alle 8.30. Voglio andare su Repubblica, dove tutti i giornali sottolineano che è libero Ali Acciada. Ieri ha iniziato con le sue farneticazioni. E l'ultimo annuncio, perché Repubblica è in grado di svelare una sorta di, più che un'intervista, insomma c'è stato un colloquio via lettera poco prima che venisse liberato, anche perché adesso per le interviste chiede dai 3 ai 5 milioni di dollari Ali Acciada, speriamo che nessuno li abbia o nessuno li voglia dare, soprattutto in Italia, a me darebbe un po' sui nervi. L'ultimo annuncio: la Orlandi ancora viva, la porterò in Vaticano. Questa è una, diciamo, botta e risposta via lettera con Ali Acciada che parla di Emanuela Orlandi, rapita tanti anni fa. Dice: è stata rapita, solo rapita, pur sapendo tutto non posso rivelare da chi. È stata rapita per ottenere la mia liberazione. Dopo 27 anni è ancora viva, sta bene, subisce limitazioni del contatto esterno. Spero di portarla in Vaticano e spero di riportarla al giorno del suo rapimento, il 22 giugno 2010. Vabbè, insomma, se non ci fosse che c'è una famiglia di mezzo che soffre moltissimo ancora per la scomparsa di questa ragazza. Queste sono le dichiarazioni di Ali Acciada, che poi dichiara anche: ho una missione universale di proclamare la verità divina. Dimostrerò con delle prove documentali che io sono il Cristo eterno, la medesima unica parola divina incarnata e reincarnata. Posso insegnare psicologia agli accademici delle università di Harvard, Yale e Princeton. Se non dimostrerò con prove documentali che sono il Cristo eterno, l'umanità deve definirmi come la persona più infame dell'universo. Archiviamo, spero definitivamente, Ali Acciada, anche se temo di no. Voglio le ultime due segnalazioni. In classe come in ufficio, al Giulio Cesare con il badge, lo propone una scuola di Roma, il liceo Giulio Cesare appunto, dove tra qualche mese 1200 studenti, lo scrive il Messaggero, potrebbero dover entrare in casa con il in classe con il badge, tesserino dotato di chip. Lo stanno studiando, si sta per inaugurare questo badge. Chissà gli studenti come saranno contenti, o chissà come si staranno organizzando, forse per un mercato di badge per marinare la scuola. Sta di fatto, stiamo aspettando l'autorizzazione finale del Ministero dell'Istruzione e poi lo faremo. Infine, l'ultima segnalazione dal secolo XIX, voglio segnalarvi una, come definirla nella foto, prorompente Antonella Clerici, che condurrà il prossimo Festival di Sanremo e dunque al Quotidiano di Genova, rilascia un'intervista esclusiva. Sarà un festival tra erotismo e cucina, e dalla foto pubblicata una delle due caratteristiche dovrebbe essere assicurata. Chi avrebbe voluto al Festival di Sanremo, dice, mi sarebbe piaciuta Michelle Obama, ci ho provato, non ci sono riuscita, poi avrei provato anche Tiger Woods, accidenti, Tiger Woods non me lo sarei perso effettivamente. Lei, giornalista Rai, lottizzata da chi? Da nessuno, mai. La politica, sono completamente apolitica, non ne voglio sapere niente. E poi vabbè, parla un po' di Pippo Baudo, parla delle canzoni, eccetera, al Festival di Sanremo. Ma sì, dai, è un appuntamento che... al quale un occhio lo diamo tutti gli anni. Allora ci fermiamo qui, il sondaggio Bamboccioni, paese di bamboccioni, colpa dei genitori o del sistema sociale? Ne parliamo alle 8.30, voi dovete votare. Siamo alle 8.18 minuti, eccoci pronti e ben ritrovati 24 mattino per l'economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, eccoci. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. E allora, torniamo su un tema che già abbiamo trattato di recente. Esattamente, l'abbiamo trattato e ci piace, esatto, in tutti i sensi. Siamo dei gran lapsus. Tu un po' meno di me, ma io, come ho già avuto modo di confessare in altre puntate, sono una pastarola, fosse per me ne mangerei a colazione, pranzo e cena. Con tutte le conseguenze poi facilmente immaginabili, insomma. Allora sì, rieccoci di nuovo sulla pasta, sul prezzo al consumo di uno dei beni più consumati in assoluto in Italia. Qualche cifra: l'anno scorso sono stati consumati 1,5 milioni di tonnellate di pasta nel nostro paese per un valore di 2,8 miliardi di euro. E allora, perché stamattina ne riparliamo? Perché stamane è stato convocato un tavolo, un confronto sulla questione del prezzo al consumo della pasta da Mister Prezzi. Per la verità, come ampiamente riportato dai giornali in questi giorni e come abbiamo ricordato anche settimana scorsa a Soldi e Dintorni, oggi è una super giornata di lavoro per Roberto Sambuco, che è appunto il garante per la sorveglianza sui prezzi, perché oltre ai pastai e a tutti i rappresentanti dell'industria di settore ha convocato anche l'industria petrolifera dopo l'incontro che si era già svolto il 17 dicembre per chiedere spiegazioni sui prezzi della benzina per discutere della riforma della rete di distribuzione dei carburanti. Noi però stamattina siamo voluti tornare sul tema della pasta perché in Italia, come vi dicevo prima, forse ne consumiamo molto di più della benzina, perché vogliamo vederci chiaro su questi accertamenti che Mister Prezzi sta facendo, ricordando anche lo scontro che si è consumato fra i pastai e l'antitrust qualche mese fa, che ha multato per 12,5 milioni di euro le aziende del settore accusate di avere orchestrato un cartello sui prezzi del prodotto destinato al consumatore finale. Allora noi stamattina abbiamo convocato da noi invece una delle associazioni convocate poi da Mister Prezzi. Buongiorno al presidente di Union Alimentari, Renato Bonaglia. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, tanto per chiarezza naturalmente nei confronti dei nostri ascoltatori, devo subito spiegare chi siete. Voi siete praticamente i piccoli dell'industria, no? Presidente? Sì, è preciso, siamo un'associazione di piccole e medie industrie del settore agroalimentare italiano, che in verità ha il settore pasta al proprio interno, però tuteliamo gli interessi di qualsiasi settore agroalimentare, quindi anche lattiero caseario, vino, carne e quant'altro si fa in Italia. Tra l'altro poi magari, so che lei magari non fa particolarmente piacere, ma ricordiamo anche come avete vissuto la questione della multa dell'antitrust, perché una frazione di multa è toccata anche a voi, 1,000 euro, ma forse siete stati quelli maggiormente tirati in ballo, perché un vostro comunicato stampa circolato in totale buona fede ha scatenato l'inferno. Ma poi ci ritorniamo. Allora, ci dica un po' dalla vostra prospettiva la questione prezzo al consumo della pasta, come è vissuta, cosa direte stamattina al dottor Sambuco? Allora, al dottor Sambuco, a cui abbiamo garantito la nostra totale disponibilità, diremo quello che secondo noi sta succedendo, che poi non è una questione specifica del settore pasta, ma coinvolge tutte le piccole e medie industrie del settore alimentare, perché le tematiche sono più o meno le stesse. Mi riferisco al fatto che, certo, le materie prime hanno delle fortissime oscillazioni, però le nostre imprese, che hanno ovviamente delle capacità di proposta sul mercato che sono commisurate alle loro dimensioni, spesso non hanno la possibilità di modificare o diciamo che subiscono questi andamenti e dal loro lato devono però tradurli in listini di vendita che magari hanno una durata non so, di un anno. Quindi è come se facciamo un po' un paragone tra quando la banca le chiede un mutuo, lei chiede un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile, lei sa che normalmente il tasso fisso è sempre un po' più alto perché ovviamente la banca si deve coprire. Certo. Ecco, la stessa cosa nel caso nostro, dobbiamo spesso tenere un listino che è fisso per un lungo tempo, perché perché non ci è permesso di adeguare le quotazioni magari ai mercati settimanali. Questi sono i meccanismi del moderno rapporto commerciale con le grandi catene distributive, e nel 2009 il grande problema in più che abbiamo avuto è che la pressione promozionale, perché come si sa tutto il mondo distributivo ha cercato di sostenere i consumi facendo offerte promozionali al consumatore, però pochi dicono che questa pressione promozionale è supportata dalla parte industriale, cioè da chi produce, a cui viene richiesto di abbassare il prezzo anche di entità percentuali molto importanti per poter permettere di fare i volantini e cose che tutti noi conosciamo. Quindi anche quello si scarica sul prezzo finale, lei dice? Ovviamente sì, perché diciamo andando a vedere il prezzo di questo prodotto che è così amato dagli italiani, sicuramente ci sono stati dei momenti in cui i prezzi sono cresciuti perché c'è stato questo tsunami delle materie prime. Adesso, guardando l'orizzonte, i prezzi sono veramente molto diminuiti e sono in forte diminuzione. Però il prezzo della pasta aumenta, perché questo è il rilievo fatto appunto relativamente all'anno 2009, Presidente. La semola di grano duro costerebbe 23 centesimi al chilo, il prezzo medio della pasta è di 1,65 euro. Questo come lo spieghiamo ai consumatori? Allora, innanzitutto, perché sembra un po' che ci sia la medesima dinamica della benzina, no? Questa vischiosità, quando il prezzo del greggio, abbiamo detto più volte che non è così banale il meccanismo, però è anche vero che all'occhio del consumatore, quando il prezzo della benzina aumenta, ovviamente questo si scarica subito sul costo del carburante. Al contrario, invece, il meccanismo è molto più vischioso. Questo accade anche per la pasta? Diciamo che i meccanismi sono simili, la filiera è lunghissima, il costo della semola innanzitutto non è l'unico componente che va a costituire il fattore prezzo del prodotto, perché noi per esempio quest'anno abbiamo avuto un incremento notevolissimo, noi come sistema delle piccole e medie industrie, di costi industriali legati per esempio all'aspetto finanziario. Qui è una cosa che va assolutamente indagata e valutata, perché noi dal punto di vista del costo del credito abbiamo avuto un incremento altissimo, perché le banche, avendo diminuito i loro profitti a seguito delle crisi, si sono buttate sui piccoli, perché mettere pochi costi a tanti è più facile che metterne tanti a dei grandi, e dall'altro lato noi abbiamo avuto un incredibile incremento dei termini di pagamento con cui incassiamo le nostre fatture, che pure questo ricade poi sulla costituzione del prezzo che noi dobbiamo per forza fare del nostro prodotto. Quindi queste componenti sono tutte componenti che, legate anche alla complessità della filiera e al fatto di dover fare dei listini temporalmente molto ma molto lunghi, comportano queste situazioni che ahimè poi balzano, come lei sottolineava, all'occhio, di una discrasia forte tra magari la quotazione di oggi e il prezzo di oggi. Bisogna dire però anche che il prezzo della semola adesso ha raggiunto dei minimi, ma all'inizio dell'anno 2009 non era assolutamente a queste quotazioni. Allora, un'ultima considerazione, Presidente, perché lo lasciamo ai suoi impegni di questa giornata. Quindi a questo punto, oggi, visto che Mister Prezzi ci vuol far chiarezza appunto sulla dinamica dei prezzi della pasta, oggi voi porterete tutte le vostre spiegazioni, ovviamente ognuno a seconda dell'associazione che rappresenta, ma alla fine, secondo lei, quale soluzione si potrà studiare per cercare di evitare in futuro anche di mettere un po' in difficoltà il portafoglio del consumatore, visto che è un accanitissimo consumatore di questo prodotto? Assolutamente, noi ci auguriamo che continui ad essere il nostro consumatore, anche perché questa pasta è un gran prodotto dal punto di vista anche nutrizionale, non solo per l'aspetto tradizionale. Noi auspichiamo questo, che si possa tutti insieme arrivare ad una maggiore efficienza di filiera. Cosa intendo? Intendo, le faccio un esempio che è una proposta che noi rapidissimo perché devo salutare. Sì, grazie. Ecco, allora, l'aspetto dei pagamenti è un fattore competitivo. In Francia si pagano le fatture a 60 giorni, in Italia molto più in là, ma quest'anno con ritardi ancora maggiori. Noi vogliamo proporre che i colleghi sindacali facciano una valutazione quando devono fare le loro attività di auditing, cioè di controllo nelle aziende, e se ci ravvedono delle situazioni di ritardato pagamento nei confronti dei fornitori, ma vale anche per noi industriali questo, il beneficio, cioè l'interesse, vada devoluto allo Stato, cioè in qualche maniera, come in Francia, creare una dinamica virtuosa per cui si rispetti il nostro partner, non perché è grande o perché è piccolo, ma semplicemente Assolutamente, perché è un partner. E questo potrebbe portare a una riduzione del prezzo al consumo, mi scusi Presidente? Sicuramente questo aumenta l'efficienza di filiera e quindi alcuni costi che sono difficilmente quantificabili verrebbero azzerati, perché lei mi insegna che dover andare a noi gli stipendi ai dipendenti li dobbiamo pagare il giorno 10 del mese. Se io quel giorno 10 non ho la liquidità, per farlo, certo. Devo andare a chiederle di nuovo in banca. Presidente, è stato chiarissimo, devo salutarla perché sto rubando la linea ad Alessandro Milan, che tra poco intervisterà anche il ministro Brunetta. Grazie, buon lavoro, ci risentiamo presto, perché grazie, non credo lei, che sia una faccenda della quale appunto non continueremo ancora a parlare. Alessandro, oggi allora, a Salvadanaio, il 2010 delle pensioni. Il 2010 delle pensioni, molto bene, noi invece ci sono ripartiamo... anche quelle del ministro Brunetta che ha riformato quella delle donne nella pubblica amministrazione. Noi invece parliamo di bamboccioni, siamo un paese di bamboccioni, è inutile negarlo, gli giovani vanno fuori di casa molto tardi, c'è anche una sentenza che ha condannato un padre a pagare gli alimenti a una figlia che era 8 anni fuori corso a 32 anni all'università a filosofia. Insomma, è un paese di bamboccioni, vi chiediamo, bamboccioni per colpa dei genitori, bamboccioni per colpa del sistema sociale. Eccoci alle 8:33 minuti, le notizie in primo piano, ad Haiti si continua a scavare, 100 bambini sarebbero sepolti sotto una scuola a Leogan, intanto è stato trovato il cadavere di uno dei due funzionari ONU italiani scomparsi, l'agronomo Guido Galli, e dall'Italia salpa oggi la portaerei Cavour con militari e attrezzature. Il presidente della Repubblica Napolitano scrive una lettera alla vedova Craxi nel decennale della sua morte, figura con luci ed ombre, scrive il capo dello Stato, ma fu colpito da una durezza senza eguali. Oggi la commemorazione di Craxi in Senato. Sono ore d'ansia nelle Marche per la sorte di Almas, una ragazza pakistana di 17 anni rapita ieri dal padre. La ragazza era stata affidata a una comunità per sottrarla ai maltrattamenti del genitore che non approvava le sue amicizie e il suo modo di vivere, troppo occidentale. Infine per il calcio, fiducia rinnovata a Ciro Ferrara alla Juventus, l'annuncio di Roberto Bettega, la Juve va avanti con Ferrara, il problema non è lui. E allora oggi alle 8:34 minuti nel nostro sondaggio parliamo di paese di bamboccioni, noi, l'Italia. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. L'ha riportata alla ribalta una sentenza del Tribunale di Bergamo, un artigiano condannato a pagare gli alimenti alla figlia, 32enne, universitaria di filosofia, fuori corso, senza lavoro, fuori corso da 8 anni. Siamo un paese di bamboccioni e tra l'altro questo ha dato spunto al ministro Renato Brunetta di fare una proposta, un po' scherzosa, l'ha detto lui stesso. Ministro, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei l'ha detto, è un tono un po' scherzoso, una proposta di lei, una legge per mandare via 18 anni per far acquisire la libertà ai genitori, ai figli, via di casa, però. Vede, oggi Ricolfi sulla stampa dà un'interpretazione giusta. Io ho detto per scherzo, come se avessi la bacchetta magica, e c'è stato un profluvio di commenti, indignazioni, ma come, una legge e i genitori obbligare, ed è venuto fuori il peggio del familismo, il peggio dei commentatori, il peggio della finta indignazione politica e così via, laddove il problema invece esiste ed è serio, ed è un problema da un lato sociale, economico. E il lavoro per i giovani non c'è o è brutto, le scuole non ci sono o funzionano male, le università sotto casa sono finte, spesso danno titoli leggeri, balordi che non aiutano a lavorare, non ci sono i campus, eccetera, eccetera, eccetera. La distribuzione del reddito va a favore dei padri e non dei figli, ci sono le pensioni di anzianità che mettono i padri in pensione a 50 anni o poco più, togliendo ovviamente lavoro e prospettive ai giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è anche una dimensione culturale, le statistiche lo dicono, una buona metà dei giovani non se ne va da casa perché a casa ci sta bene. Semplicemente ci sta bene. Questo è anche vero. E per carità, bontà loro, va bene così. Però nel mondo le cose non vanno così, nel mondo i giovani escono di casa, fanno le loro esperienze, la loro vita e così via. Quindi metà colpe dei padri, metà bambagia, effetto bambagia, chiamiamolo così, il risultato è che noi abbiamo giovani compressi, con minor libertà economica, sociale, eccetera, eccetera, e in fondo, soprattutto quelli medio borghesi ben comodi in questa situazione. Pensa che noi, Ministro, ci volevamo chiedere, ci siamo chiesti nel nostro sondaggio, se sia colpa dei genitori o più del sistema sociale. Lei in realtà ha detto è colpa dei genitori che hanno creato questo sistema sociale, insomma, di fatto. Cioè di tutti e due. Allora, io ho spiegato tutto questo. Devo dire, io queste cose un po' le ho studiate per una vita, faccio l'economista, l'economista del lavoro, ho studiato la famiglia. Questo è, sono tra l'altro i risultati della migliore letteratura analitica, basti vedere gli ultimi volumi usciti su tutti questi temi, cioè sul familismo italiano, che è prodotto nostro, guardi, è colpa nostra, sua, mia, cioè siamo noi, quindi non accuso nessuno dal punto di vista politico, la destra, la sinistra, per carità, è la nostra storia, è la nostra cultura, però questa nostra storia, questa nostra cultura produce giovani fragili, impreparati, fragili, che proprio per questa loro impreparazione, questa loro fragilità e per le cause esterne preferiscono stare a casa. Questo non aiuta né loro nello sviluppo economico del paese. Le chiedo, Ministro, l'olimpionico dello sci di fondo Pietro Piller Kotter, che tra 25 giorni in bocca al lupo sarà uno dei nostri italiani, ha detto che andrà a Vancouver, ha detto il Ministro ha ragione, sa cosa propone Piller Kotter, ha detto ci vorrebbe il ritorno alla leva militare, basta. Lei che... Io non sono, non amo la leva, non amo la vecchia leva, piuttosto amo invece il professionismo di tanti militari italiani che si distinguono nel mondo, e quindi più che la leva obbligatoria, come dire, amo il professionismo di tanti bravi militari. Però probabilmente Piller diceva una sorta di shock che colpiva il giovane di tutti i ceti, di tutti i tipi, che doveva allontanarsi da casa un anno e fare un'esperienza da un'altra parte. Non farebbe bene? Non farebbe bene. Questo io credo. Pensiamo semplicemente alle classi meno abbienti. Pensiamo ai poveri, pensiamo ai figli di famiglie non ricche, che da questa esperienza... io ripeto, non amo la leva obbligatoria, però da questa esperienza traevano una prima esperienza di vita e di conoscenza all'esterno, ma se invece della leva obbligatoria, che era uno spreco e che era una perdita di tempo, perché non volontaria ovviamente, ci fossero le occasioni di studio, di lavoro, di stage, di borse di studio, di esperienza all'estero, gli Erasmus, ma pensiamo agli Erasmus, come l'Italia potrebbe cambiare se riuscisse a fare Erasmus di massa anche sugli ultimi anni delle scuole superiori, del liceo, sì. Mandare un ragazzo del penultimo anno prima della maturità, mandarlo a Lione piuttosto che a Düsseldorf a studiare un anno, cosa che si può fare già adesso. Pensiamo come può cambiare la sua testa, la testa della famiglia, che comincia a pensare europeo, conoscere una lingua europea e così via, e poi fare Erasmus all'università. Ecco, sono tutte forme di rottura rispetto al familismo, rispetto al piede di casa, di stare vicino a casa, che fanno crescere la società italiana. Tutto questo però si può fare volontariamente, nel senso che non è che possiamo obbligare. Mi scusi, insomma, è ovvio tutto questo. Bisogna mettere in piedi le condizioni, gli stimoli, gli incentivi per farlo, che attualmente non ci sono. E quindi siamo in una sorta di circuito perverso, non ci sono gli stimoli, non ci sono le condizioni, diamo di più ai padri, quasi niente ai figli, il risultato è quella sentenza di quel giudice che ha condannato i genitori a tenersi la figlioletta 32enne fuori abbondantemente da 10 anni fuori corso e così via. Per carità, poi ci saranno condizioni particolari, familiari, però quella statistica che dice che i giovani stanno a casa semplicemente perché a casa stanno bene. Ecco, questo è l'indicatore, non perché non c'è lavoro o perché non ci sono i campus o perché semplicemente perché se ne stanno bene. O anche quella statistica che dice che moltissimi giovani non studiano né lavorano. Questo è vero, nulla facenti. E che fanno? Allora, dire questo, dirlo con un po' di ruvidezza, dirlo con un po' di ironia, dire se avessi la bacchetta magica mi piacerebbe che... E ha scatenato i ben pensanti. Ma lei così, Ministro, lo sa, non può pretendere di parlare e... Devo dire, un commentatore tale Caldarola oggi mi dice se avesse detto che i problemi sono sociali, il fatto che l'ho detto e probabilmente che lui non l'ha letto, l'ho detto in diretta alla radio, l'ho detto nelle agenzie che hanno riprodotto esattamente il mio pensiero, evidentemente i commentatori non leggono, ma scrivono. L'ha detto. Nel salutarla e nel ringraziarla, Ministro, mi faccio fare una domanda che non c'entra nulla inerente, ma insomma, lei è stata da Mamet per la commemorazione a Craxi, ha visto che il presidente Napolitano è intervenuto su Craxi, che ne pensa di quell'intervento colpito con una durezza senza eguali? Vede, adesso non voglio dire, avevo detto le stesse cose io 2 giorni prima, luci e ombre colpito senza, con una durezza senza uguali, mi fa piacere che, come dire, di aver interpretato bene il pensiero del presidente Napolitano. La ringrazio per essere stato con noi, Ministro, ovviamente buon lavoro, Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta. Allora, la domanda che ci poniamo è questa: paese di bamboccioni, colpa dei genitori e del sistema sociale? Io, prima di salutare un ospite che ci sta ascoltando con pazienza, magari 2 ascoltatori o uno se ce la fa, Michele da Torino, buongiorno, lei che dice? Sì, Michele, buongiorno. Dica. Volevo anche intervenire su cosa sì. dei bamboccioni e tutto quanto. Volevo dire praticamente che la colpa la prima è dei genitori, la seconda è colpa nostra praticamente. Io volevo raccontare la mia storia. Io adesso ho 25 anni, sono di Torino. Sì. Sono uscito di casa a 15 anni, che diciamo ho preso il mondo praticamente a 15 anni da solo, senza l'aiuto di papà e di mia madre. Mi è stata dura, è stata molto dura, sì. Capisco, ci sono stati dei giorni che non avevi neanche un soldo in tasca, tutto quanto. Però guardi, ringraziando Dio, va tutto bene adesso, mi sono messo in piedi. Ho capito, diciamo, ma ha avuto la forza d'animo di dire lo faccio, perché sennò o è stato preso con un figurativo calcio nel sedere per dire vai, perché vai a fare la tua vita. No, la mia famiglia praticamente non mi ha potuto offrire tante cose perché provengo da una famiglia, diciamo, che non c'ha tanti soldi. Mia madre e mio padre sono dei semplici operai e quindi non ho avuto tanto da chiederli. Quindi ho detto mi faccio da solo la vita. Sei trovato in questa situazione. Io adesso sono andato avanti piano piano, cominciando dai corsi serali, cominciando da operaio a diventare capo di magazzino in una multieuropea, diciamo, un grosso gruppo, poi piano piano con l'aiuto degli amici. Insomma, ce l'ha fatta, è una storia di uno che ce l'ha fatta. Beh, ma complimenti Michele. Mi scusi, forse parla un italiano perfetto, ma è originario di dove? Michele, se lei, è originario di dove? Lei è italiano o... Io di nazionalità sono moldava, perfetto, va bene, complimenti Michele per la sua storia. Voglio salutare il professor Giacomo Vaciago che ci sta ascoltando. Professore, buongiorno. Buongiorno. Così a tutti. Come Chiara Saraceno che insegna sociologia a Berlino, buongiorno professoressa. Buongiorno. Sono da voi tra un attimo, devo dare il traffico, partirò dal professor Vaciago, da Chiara Saraceno per capire insomma che paese siamo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Sto per crollare, Paul. Che ti prende? Mi sono informata su Proust. Non se n'è andato di casa a 35 anni. È perché i suoi genitori sono morti che è andato via. Se no sarebbe ancora lì. Io non ce la faccio più, Paul. Non ce la faccio a sopportare Tanguy altri 18 mesi dentro casa. Lo so, sono una pessima madre, ma non lo sopporto più, che cosa vuoi che ti dica? Ti rendi conto che sono 28 anni che lo vediamo tutti i giorni? È la madre di Tanguy, questo celebre film. Tanguy è il ragazzo che non ne vuole sapere di staccarsi da casa. E la madre dice, sono una pessima madre, ma non ne posso più di vederlo. Professor Vaciago, lei che ne pensa? Insomma, c'è questi genitori che non vogliono staccare il cordone ombelicale, sono la colpa oppure colpa del sistema sociale, colpa dei figli che stanno nella bambagia? Ma direi che anche dalle parole del ministro Brunetta è emerso con chiarezza che la famiglia in Italia risolve i problemi del paese, risolve un po' fra virgolette. Allora, la sentenza che devi mantenere un figlio anche dopo 8 anni che è fuori corso. In nessun paese al mondo uno può stare 8 anni fuori corso all'università. Naturalmente, se questo la società lo consente, qualcuno deve darsene carico di quel giovane. Nei paesi normali ci si laurea in 3 o 4 anni e poi si va a lavorare. In Italia no. L'altra cosa, negli ultimi 20 anni tutti questi problemi si sono aggravati, il paese non cresce e quindi i giovani ricadono sul reddito dei genitori e abbiamo moltiplicato le sedi universitarie portandole a distanza di autobus dalle abitazioni dei cittadini. Naturalmente anche questo fa sì che gli studenti tendono ad andare all'università e poi tornare a casa dalla mamma. Sì. Dico a una mia amica, escono dati Istat che dicono, ma lo sai che dai dati dell'Istat il 94% degli studenti universitari italiani va a cena a casa dalla mamma? 94, lei mi guarda e mi fa, Giacomo, anche a pranzo. Allora, unico paese al mondo, nei paesi normali l'università è una comunità di studenti e di professori che in un certo posto assieme vivono. Allora, non lamentiamoci che per fortuna le mamme risolvono qualche problema, visto che noi abbiamo accettato di essere un paese che non cresce, che fa università a domicilio e dove gli studenti si laureano, fanno gli esami e si laureano quando vogliono. E quindi questo è il prodotto. Vediamo Alessandra da Gorizia, che ne pensa? Alessandra, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, io premetto che ho perso un pezzettino di trasmissione, sì, perché guidando non è assurdata. Vabbè, dica. E sono arrivata a un certo punto dove sentivo parlare di Erasmus, benissimo. Sì. E io ho 4 figli, lavoro da una vita insieme a mio marito per mantenerli e mandarli a scuola, però l'Erasmus mi costava un po' caruccio. Quindi sì, sarebbe una bellissima cosa, come dice il ministro, però fosse gratuita, cioè costa mandare i figli all'estero. A scuola di mia figlia ai tempi c'è stata qualche ragazza che l'ha fatto, però alle superiori intendo, però era caro e noi non ce lo potevamo permettere. Per prima cosa, mia figlia poi ha proseguito, ha finito le scuole superiori, adesso per sua scelta ha deciso di andare a lavorare, però i lavori che le vengono proposti, vuoi per il fatto che esiste questa lunghissima fascia d'età per cui viene compreso l'apprendista che non ha un trattamento economico proprio fantastico, lei in questo momento fa un lavoro per cui è occupata 30 ore alla settimana e prende 450 euro. Insomma, lei dice, Alessandra, costi dell'università, costi dell'Erasmus, costi stipendi bassi, costi anche, io aggiungo, degli affitti. Chiara, professoressa Chiara Saraceno, il tema economico purtroppo è fondamentale, insomma, è in primo piano, poi è un gatto che si morde la coda, no? Certamente, non è il problema economico complessivo, cioè i salari bassi, non dimentichiamo che i giovani italiani hanno i salari di ingresso più bassi in Europa, con una forte concentrazione di rapporti di lavoro precari. Poi è giusto quello che diceva Vacciago, che ho sentito solo a sprazzi perché a distanza non si sentiva bene, che abbiamo anche un sistema universitario dove in cambio di servizi non sempre ottimi, in compenso uno può stare per sempre, per cui non c'è un termine, come dire, fine pena mai. E quindi di nuovo i nostri giovani entrano molto tardi rispetto ai loro coetanei nel mercato del lavoro. Però il ministro, invece di colpevolizzare la famiglia e dire che sono i genitori che ci tengono ad avere i figli che stiano il più a lungo a casa, dovrebbe appunto interrogarsi sul fatto che il suo governo, ma anche molti precedenti, incentiva la solidarietà familiare come unica risorsa disponibile ai più giovani e anche ai meno giovani. In realtà la generazione dei genitori sarà anche stata egoista nel pensare delle politiche sociali più redistributive nei confronti degli anziani, sì, che nei confronti dei giovani, però poi sono sempre i familiari che redistribuiscono, quindi c'è troppa solidarietà familiare. Troppa, cioè, che vuol dire? Lei dice la politica dà tanto ai padri e non ai figli, ma poi quei soldi che arrivano in famiglia, beh, quello che dice il ministro ha detto, infatti i padri sono anche egoisti. Cioè, il problema non è tanto che non sono tanto i padri egoisti, è uno stato sociale che pensa che la famiglia sia l'unica risorsa forte da dare a chi ha bisogno di qualche cosa. Infatti anche soltanto gli ultimi documenti, l'Italia 2020 dei ministri Carfagna e Sacconi, proprio questo dice il libro sul welfare, cioè continuamente viene richiamata la bontà della solidarietà familiare. Io sono d'accordo che è bello che si sia solidali, ma se uno ha solo la famiglia, poi è difficile uscire, perché se io esco e poi non posso pagare l'affitto e non ho altre risorse, sono a carico dei miei genitori. Allora ripensiamo diversamente, pensiamo di investire un pochino di più di risorse pubbliche buone tra i giovani, e forse diventeranno anche un po' più autonomi, e anche cambiamo la legge che obbliga i genitori a mantenere i propri figli ad oltranza. Questo sì. Vediamo se Andrea da provincia di Firenze ci fa concludere. Andrea, buongiorno. Che dice lei? Buona giornata a tutti. Dica, dica. Pronto? Sì, sei in diretta, dica. Ah, sì, non sentivo per nulla. Prego, prego. Praticamente io volevo dire la mia per quanto riguarda il Bamboccioni. Posso dire con assoluta certezza che il problema è anche di tipo sociale. Ci sono magari dei genitori che sono troppo, troppo protettivi verso i propri figli. Però il problema è anche per quanto riguarda a livello sociale. Io mi trovo a 32 anni ad essere uscito di casa da 6, quindi a 26 anni, abbastanza tardi, e mi trovo praticamente al niente, che mi ero costruito una piccola carriera. Cioè, qual è il problema? Il lavoro? Qual è il problema? Il lavoro? L'affitto? Il lavoro, perché comunque sia sono ormai un anno e tre mesi che sono senza lavoro, e cerco di aiutarmi con dei piccoli lavoretti, ma il problema è che pur facendo colloqui di varia natura. Va bene, un problema lavorativo, questo la costringe a ritornare Bamboccione, chiede aiuto ai suoi genitori, per esempio? Bamboccione, perché io sono da 6 anni alle spalle praticamente dei miei suoceri. Ah, quindi che ci sono loro, è fuori, ma è alle spalle dei suoceri. Va bene, la ringrazio, la devo fermare, Andrea, così come ringrazio tutti gli intervenuti, perché siamo davvero in chiusura. Sara Spreafico in redazione, con Peter Bescapè in regia. Votate su Radio 24 punti di sondaggio. Allora, paese di Bamboccioni, colpa dei genitori o del sistema sociale? Ci fermiamo qui. A domani.